9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. 9 in punto è l'hashtag su Twitter. Prima di presentare l'ospite, in realtà poi già lo sapete insomma chi è, prima di presentare l'ospite, visto che per noi è anche un ospite particolare, consentitemi di fare una breve introduzione. Abbiamo incontrato gran parte dei candidati premier o leader della coalizione, almeno i principali, in questa trasmissione, in quest'ultimo mese circa. C'è una domanda, sinceramente, che mi pento di non aver fatto a nessuno. E non è una domanda sulle coperture finanziarie, su quanto intende abbassare l'IMU, su quanto intende tagliare di tasse, tagliare di spesa, risolvere il problema del debito pubblico, ma è la domanda che secondo me va al cuore di quello che dovrebbe essere la politica, il disegno della politica. E il cuore, il disegno della politica è della politica, quella alta, dico, è immaginarsi come possa essere il paese tra 20 anni e progettarlo. È una cosa che finora nessuno, o insomma molto molto poche, pochissime persone hanno fatto. E dunque al nostro ospite di stamattina pongo questa domanda, e vi potrà sembrare vaga, ma per come la vedo io è la più difficile. Oscar Giannino, buongiorno. Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Perdonate per la voce, è un po' roca, faccio un po' troppi comizi. Un po' troppi comizi in giro per la televisione. Allora Oscar, guarda, poi andremo su tutto il resto, su Berlusconi che ha paura, su Sallusti che oggi fa un editoriale feroce contro di te. Parleremo naturalmente di debito pubblico e del vostro progetto per il paese, ma prima mi devi rispondere a questa domanda. Come te lo immagini questo paese tra 20 anni e come lo progetti? Ma se depurato da tanta cattiva politica, è un paese che ancora oggi ha un'enorme capacità di saper fare benissimo ciò che è e rende forte l'immagine dell'Italia sui mercati. Cioè, noi abbiamo un export che ha più valore di quando c'era quasi 30 punti di prodotto industriale in più, quindi ci sono centinaia di migliaia di imprese e alcuni milioni di italiani che mostrano tutti i giorni, malgrado il piombo che abbiamo nelle ali, malgrado le tasse in più, l'energia in più, la pubblica amministrazione, però dimostrano che in questo paese la capacità di saper fare straordinarie cose che crescono in valore aggiunto nei prodotti, nei processi eccetera, c'è ancora. Quindi questa è un'Italia che ha ancora un cuore forte, mani forti, teste abili, enorme dedizione su ciò che è il meglio di questo paese. Il problema è che perché questo futuro si avveri e non spezziamo questa linea di continuità della straordinaria capacità del saper fare italiano, c'è bisogno di una grande azione di pulizia, perché io credo che la stragrande maggioranza dei politici di professione queste cose le conoscono troppo poco per loro sono la priorità, troppo distanti sono dalla condizione di milioni di famiglie italiane. E riducano tutto a un rodeo per l'ennesima volta tra chi sta con chi e se non stai con questo allora quello. Però il problema di fondo è che invece questo paese secondo me ha la straordinaria possibilità di continuare a essere ciò che è stato per tanti decenni, insomma il miracolo della generazione dei nostri padri, quello che tra il 46 e i primi anni 60 diede una speranza che quella generazione credeva di non avere mai più per come era in ginocchio. Figuriamoci, sono riusciti a fare di molto meglio. Io credo che questo è il modo con cui ti rispondo alla domanda: vedo l'Italia tra 20 anni. C'è tutto ciò che serve tranne una cosa, la buona politica. Da cosa partiresti? Facciamo la solita ipotesi classica, insomma, dovessi mai diventare presidente del Consiglio, la prima cosa che farei, il famoso primo Consiglio dei Ministri, ammesso che insomma che questo ragionamento sia valido. Oggi un editoriale per Luigi Battista sul Corriere della Sera critica molto, o almeno in parte, questa cosa del, questo mito del primo Consiglio dei Ministri. Però che cosa ti immagineresti tu? No, la cosa che farei prima è chiamare i direttori generali del Tesoro e dei 6 ministeri di passera, cioè tutti i ministeri economici, il pomeriggio prima, perché senza di loro non si scrive nessun provvedimento, contro di loro non si va da nessuna parte, sono loro che scrivono le misure economiche, sono loro che se la scrivono in un certo modo la Corte Costituzionale le blocca, come più volte è avvenuto. Quindi il pomeriggio prima, appena messo piede lì, li chiamerei dicendo: conoscete il programma? Allora, c'è un impegno preciso da parte vostra oppure chi va a casa? Perché questa è una cosa necessaria. con tanto di modifica poi del regime di leggi amministrative che consente loro di ritornare al posto con reintegri amministrativi deliberati dai loro colleghi consiglieri di Stato e del TAR. È necessario, perché la spina tecnica è ciò che ti consente o meno di fare poi i provvedimenti. Mentre l'indomani per me sarebbe abbastanza chiaro, cioè sono due cose che cambiano marcia alla politica di finanza pubblica: uno, avviare i veicoli con cui si fanno le massicce dismissioni pubbliche, senza di cui non si abbatte il debito pubblico se non a costo di tasse, e invece esiste il modo di farlo in termini alternativi, con la patrimoniale pagata dallo Stato, come dico io. La seconda cosa è quella di introdurre un nuovo principio nella contabilità pubblica, per la quale, dopo la prima premessa, ogni singolo euro di spesa in meno si retrocede, con un bel articolo di legge proprio che ci impegni a farlo, in meno imposte al lavoro e all'impresa. La terza cosa è aprire un cantiere, invece, perché il terzo argomento, quello di intervenire sulle vittime della crisi, non si farebbe per decreto legge, perché sono temi delicati e bisogna evitare che sindacati e il mondo del lavoro esplodano, perché il mio problema è quello di dare una mano a giovani donne disoccupate di lungo periodo, cioè le vittime della crisi, per coloro che sono a minore anzianità contributiva, appunto, lavorano meno, molto meno degli altri. Io propongo una seguente domanda: siccome siamo abituati a considerarci uguali orizzontalmente, a prescindere dall'età, dal genere, siamo abituati per cent'anni di meravigliose lotte politiche e sindacali a prendere lo stesso peso fiscale sul reddito, lo stesso peso fiscale sui contributi, a parità di reddito realizzato e di lavoro offerto, qualunque sia la nostra età e il nostro genere, questa condizione è ancora valida in Italia di oggi? La mia risposta è no, non siamo affatto più tutti uguali orizzontalmente, perché la condizione di un 33enne maschio che ha un contratto a tempo determinato non ha niente in comune con un 33enne maschio che ha vissuto solo di precariato e non ce l'ha, e tantomeno con una donna che un contratto a tempo determinato non l'ha mai visto. E allora io dico, invece di questa eguaglianza orizzontale, discutiamo sull'uguaglianza verticale. A loro, a quelli che hanno minore anzianità contributiva, abbassiamo la pressione fiscale contributiva e gliela alziamo nell'arco della vita, se e quando aumenta il reddito, se e quando aumentano le tutele. Questa idea di eguaglianza verticale, immagino, non piacerebbe a molti, perché credono che l'eguaglianza orizzontale sia ancora un valore. Per me ormai è un disvalore, perché ha spaccato il mondo in due. Però questa terza cosa la farei aprendo un cantiere. Questo dal lato del lavoro. Poi c'è l'altro fronte, quello che hai anche battuto molto da questi microfoni, giustamente, che è quello delle imprese. Inizia a palesarsi qualche proposta anche dagli altri partiti. Ieri Pierluigi Bersani ha parlato della possibilità di rifornire, di pagare 10 miliardi di quelli dovuti dalla pubblica amministrazione alle imprese attraverso un'emissione di titoli del tesoro sul modello BTP Italia, vincolati esclusivamente a quel fine. E pare che anche Berlusconi stia pensando alla stessa cosa, così almeno scrive Libero, il giornale oggi. Tu che dici, da quel lato come si sbloccano le cose? No, da quel lato si sbloccano non con strumenti finanziari ad hoc, a tempo, eccetera, eccetera. Si sbloccano con con meno imposte che derivano da meno spesa pubblica. E il problema è, per questo bisogna prendere l'impegno in legge di procedere così per un certo numero di anni, fino a che non scende di 5 punti almeno la pressione fiscale in termini di PIL, in corrispettivo al fatto che poi scende almeno altrettanto la spesa pubblica. Quindi in realtà, per dare margine alle imprese, bisogna quei 5 punti, che sono una novantina di miliardi di euro di entrate nominali in meno di 5 anni, significa l'abolizione integrale dell'IRAP, che sono poco più di 30 miliardi, per un terzo, quindi per altri 2 punti di PIL, significa lavorare molto aumentando le detrazioni per lavoro autonomo e dipendente sulle aliquote basse dell'IRPEF. Risultato: a 15.000 euro ci si arriva come non tax area sull'IRPEF, e per l'altro terzo sul cuneo fiscale, per abbattere questo record paradossale italiano per cui le imprese hanno il massimo di costo lordo aziendale e i lavoratori, i loro dipendenti, il minimo di retribuzione netta in tasca. Credo molto più a questo che a questi sofisticati artifici che vengono elaborati da chi non vuole prendere con forza l'impegno di tagliare la spesa e le tasse, perché la storia è questa. Io non credo a questi signori dopo 18 anni, se ne faccia una ragione Berlusconi, la sinistra. Ogni volta dicono una cosa, ogni volta ne hanno fatto un'altra, ogni volta che tradissi mia moglie mi ferma la prima volta, e io faccio, dopo a tutti un appello, ma regolatevi allo stesso modo e cestinate queste idee di chi nella realtà vi ha regalato solo più spesa, più tasse, più debito. Conta la realtà o contano le promesse? Contano i fatti o contano le chiacchiere? Nella vita di ciascuno di noi contano solo i fatti. Se sgarriamo una volta, tu con il tuo direttore e anch'io, finché era il mio, noi con i nostri clienti e fornitori, perché è una piccola impresa, le famiglie con i loro debitori, chi sgarra qua la paga? Solo loro raccontano palle assolute su quello che hanno fatto per 18 anni. Luciano si chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, prego. Ascolti, io ho dato il piacere di salutare Oscar Giannino, che l'ho sentito molte volte. In ogni caso io volevo chiedere e fare una proposta. Noi è vero che abbiamo i nostri rappresentanti, per cui sono eletti da noi e ci rappresentano, però le nostre elezioni vengono fatte sulla base di un programma elettorale, su base di promesse. A questo punto io chiedo, e chiedo a Giannino, possibile mai che nel momento in cui questi non sono in grado di mantenere le promesse nell'arco di 3, 6 mesi, un anno, un tempo ben definito, per qualsiasi motivo, che non sto a sindacare, non mi interessa qual è il motivo, vuol dire che non hanno fatto una valutazione corretta di quelle che erano le promesse che potevano portare avanti, a questo punto se ne vanno a casa, i governanti se ne vanno a casa e non sono più rieleggibili. Però Luciano, però come facciamo? Mica può mettere un authority per la verifica delle promesse, no? Vabbè, voglio dire, però se io ho un programma elettorale che mi dice guarda che io nell'arco di 6 mesi ti porto avanti questo, questo, questo e quest'altro, dopodiché cosa succede? No, ma perché la situazione precedente non era quella che era stata dichiarata. No, tu per sapere la situazione precedente e per proporti come rappresentante dei cittadini ti informi, ti documenti, la matematica non è un'opinione, per cui i numeri sono numeri, non mi puoi venire a dire ma c'è stato il bilancio che non era giusto, non era corretto. No, Luciano, chiarissimo, in realtà Oscar, l'authority per il controllo delle promesse dei politici dovremmo essere esattamente noi. Beh, diciamo che in altri ordinamenti ci sono esempi a cui ispirarsi. Io stesso voglio un certificatore, vorrei nel mio paese ideale un certificatore della situazione indipendente dai governi in carica e dalle maggioranze in carica. Il Congressional Budget Office, il CBO nell'ordinamento americano è una cosa di questo tipo, è un organo indipendente nel Parlamento da chi esercita la maggioranza pro tempore e indipendente dall'amministrazione presidenziale. E quindi fa un check indipendente sia sulle proposte di bilancio del presidente sia sulle proposte di ciascun parlamentare, e quindi è una certificazione terza. Ci vorrebbe in Italia, primo, perché per dare un esame della situazione realistica quando esce una maggioranza politica rispetto a una entrante, così eviteremmo tutte le polemiche sulla polvere sotto il tappeto e le nuove manovre. Secondo, io sarei per depositare in Parlamento un programma di governo. Terzo, sarei per graduare la retribuzione dei signori parlamentari della maggioranza all'attuazione di quel Parlamento. Man mano che va avanti l'attuazione ti avvicini al 100% della tua retribuzione, altrimenti ne becchi meno in proporzione. Sono molto convinto dal fatto che lo stimolo nella tasca dei signori parlamentari velocizzerebbe di molto l'attuazione del loro programma. Tutte cose che mancano, dici tu, certo, la rassegnazione a tenere le cose come stanno è infatti ciò che bisogna sconfiggere. Secondo te ci vuole una manovra? Perché insomma lo stanno dicendo in tanti, lo dice Tremonti, insomma l'abbiamo letto sui giornali. Secondo te ci vorrà una manovra visti i dati sulla crescita? Ma questo più o meno per il mestiere che faccio e continuerò a fare, perché questa la politica è un episodio temporaneo per utilizzare il fatto che gli altri fondatori molto più autorevoli di me si candideranno tutti la prossima volta. Adesso a me tocca, per così dire, vincere la paura. Ma detto questo, sappiamo che l'ipotesi tecnica alla base dell'ultimo intervento del governo uscente sul bilancio pubblico, quelle ipotesi tecniche sono già state superate nei fatti, perché Banca d'Italia ha dovuto correggere a ribasso molto significativamente le prospettive di attesa dell'economia italiana nel 2013. Quindi, siccome l'andamento dell'economia reale era stimato in termini troppo positivi dal governo, e questo fatto, come sai e come sa chi ascolta Radio 24, produce degli effetti di diminuzione delle imposte, di modifiche delle poste sulle retribuzioni degli occupati e così via, e quindi tecnicamente è molto verosimile che si debba rimettere mano, bisognerà vedere per quanti miliardi, per effetto di questo discostamento tra le previsioni fatte dal governo alla base dell'ultimo intervento e gli andamenti reali dell'economia italiana, che restano molto, molto, molto più negativi di quello che il governo pensasse. Ci chiede un ascoltatore via Twitter, ve lo ricordo, l'hashtag 9 in punto, poi prenderemo anche altre telefonate. Che cosa ne pensi del quoziente familiare? Penso questo. Siamo un paese nella cui legislazione fin dall'inizio dell'Ottocento la famiglia era un soggetto contributivo, era un soggetto fiscale. Poi, con una sentenza della Corte Costituzionale, non per la scelta di una maggioranza politica, per la scelta del Parlamento, con una sentenza della Corte Costituzionale nel 1976 abbiamo cambiato impostazione del nostro ordinamento tributario. Ripeto, era una scelta che derivava dalla vecchia imposta alla famiglia, dal 1814, negli ordinamenti tributari italiani. La Corte si adeguò a un altro criterio. Era l'epoca della cultura di diritti individuali e quindi fu abolito il cumulo familiare nel nostro ordinamento. Propongo due osservazioni. Da allora chi chiede il quoziente familiare viene bollato come se fosse un cattolico integralista rispetto alla splendente atmosfera dei diritti individuali. Ecco, propongo di metterci alle spalle questa impostazione che non ha niente a che vedere con il problema vero. Propongo invece una seconda impostazione. Esaminiamo laicamente, con acribia, come si suol dire, con distacco dai punti di vista ideologici, che cosa è avvenuto nel nostro paese da allora, adottando il criterio del soggetto individuale come unico soggetto di imposta, rispetto ad altri paesi di ordinamenti diversi, sia di common law che di diritto continentale, che hanno consentito invece ancora e ancora consentono ai contribuenti la scelta di un regime diverso da quello individuale, cioè di un cumulo familiare, come avviene per esempio in Francia, come avviene per esempio negli Stati Uniti. Risultato: l'effetto che l'imposizione fiscale esercita sulle famiglie italiane e sulla numerosità dei figli è testimoniato dalla nostra curva demografica, che è la curva demografica di un paese senza futuro, disperato. 1,4 nati per residente italiano rispetto ai 2,1 che ci servono. Ecco, in entrambi gli altri paesi invece sono sopra la quota di equilibrio tra le generazioni. Il nostro fisco rispetto alla Francia, per il 40% degli italiani che stanno peggio, per i 4 decimi di chi paga meno imposte perché ha meno reddito, e facendo la stessa proporzione sulle stesse coorti di contribuenti francesi, da noi il fisco italiano chiede quasi il 40% in più al secondo figlio e più del 50% in più per il terzo figlio. Allora, conclusione. Fatte queste premesse, che nulla hanno a che vedere con che cosa credo o non credo nell'aldilà, e poiché noi dobbiamo addrizzare assolutamente la curva demografica, perché lo insegniamo agli studenti che la demografia è una componente della crescita del prodotto, io sono per tornare a una scelta libera per i contribuenti che facciano su famiglia tra la contribuzione individuale e quella di un fiscal splitting familiare, quoziente familiare, chiamatelo come volete. Il problema diventa a quel punto come si calcola questo quoziente. Io sono per una gradualità per la quale iniziamo dal numero di figli che abbattono, come ovvio, il quoziente rispetto all'aliquota del percettore di redditi o alla somma dei redditi della famiglia, per poi arrivare anche al coniuge a carico. Questo perché il calcolo è che, a seconda di come lo facciamo, può essere tra uno o due punti di PIL di entrate in meno, quindi bisogna stare attenti. Però io sono risolutamente favorevole, perché riaddrizzare la curva demografica abbattendo l'eccessiva pretesa fiscale italiana è una questione centrale per rilanciare l'economia italiana. Oscar, ti porto sulla politica adesso. Indovina di chi parliamo. Parliamo dell'uomo che era seduto al posto tuo giusto ieri mattina, insomma, di Silvio Berlusconi. Com'è? Ti sei divertito con lui? Ma sì, tutto sommato sì, tutto sommato sì, alla fine, insomma. Vabbè, ammetto che lui, dal punto di vista del divertimento, dell'intrattenimento, mi batte 100-0, insomma. Mi sono scordato però di fargli quella domanda che ti ho fatto all'inizio, che è quella che, lo ripeto, ritengo fondamentale. Ma è molto semplice, per lui tra 20 anni è ancora candidato alle elezioni, cioè non è... Senti una cosa, ma insomma, secondo te ha paura di te Berlusconi? Perché insomma ti ha chiesto di lasciare, di abbandonare. Oggi, ti ripeto, c'è questo feroce, forse l'avrai visto, editoriale di Sallusti, dice che il tuo movimento sta naufragando sul campo sotto il peso della megalomania del suo leader. Beh, vabbè. Sallusti posso esprimere solo solidarietà, perché è ovvio che con un editore così è ovvio che l'editore abbaia e tu devi rispondere, ma non è questo il punto, francamente non è questo il punto. È elementare, cioè se fosse vera la metà di questa tesi per la quale sono voti inutili, non esistiamo, non sprechiamo, evidentemente non farebbero così da spunto per interventi ormai quotidiani, martellanti e ossessivi di Berlusconi. Quindi è un problema che lascio alla sua impostazione, quella di credere primo che i voti siano suoi. La concezione patrimoniale che gli appartiene in tutto, e quindi anche nella politica, lui è convinto che i voti siano suoi, glieli stai, come dice lui, sottraendo. La mia risata è il miglior commento. Secondo, evidentemente non sono così inutili, visto che determinano degli effetti di un certo peso, perché insomma se perdesse per la prima volta in Lombardia da quando è sceso in campo sarebbero di un certo peso. Dice: ma allora tu sei lì per far perdere loro? No, io sono lì perché loro non governino più la destra, la sinistra, hanno avuto 18 anni per far vedere che chiacchierano in un modo e fanno in un altro. Siamo nati esattamente per questo, solo società civile dicendo siamo stufi, non andremo a votare, abbiamo una condanna netta verso le chiacchiere che si allontanano anni luce dalle promesse, ed è tanto più grave a miei occhi che lo faccia chi sedicentemente si autodipinge come liberale quando è la caricatura di un padrone premoderno. Ma tu sei uno di quelli che si è sentito tradito da Berlusconi, Oscar? No, io ti ricordo questa storia che spesso viene alimentata. Io nel 94, quando scese in campo, fare ricerche su internet per favore, stavo in Alleanza Democratica. Io sono tradito in quanto liberale dall'effetto concreto delle sue azioni volte a tutelarsi personalmente in giudizio, a tutelare personalmente il suo gruppo in enorme conflitto di interessi con una RAI che resta schifosamente ai partiti, in quanto dall'altra parte c'è un'azienda che si difende con la politica. Resto poi tradito perché uno che dice di fare meno spese e meno tasse fa l'esatto opposto, e quindi noi abbiamo più spese, più tasse, più debito, e non possono in alcuna maniera sovvertire che su entrambi questi settori, il conflitto di interesse dell'azienda e quello di più spese e più tasse, questi siano fatti oggettivi. Sulla sua difesa in giudizio lascio perdere, per così dire, sulla riforma giudiziaria attesa tanti anni e poi ridottasi ogni volta alle leggi per sé. Ma insomma, sulla politica parlano i fatti. Poi vedremo se ha così ragione che sia un voto inutile. Se fosse inutile non parlerebbe. Berlusconi usa a distillare i suoi interventi con priorità precise. Io sono molto divertito, quindi non replico certo con toni addirati eccetera, molto divertito, e per quello che mi riguarda mi auguro solo che continui tutti i giorni, mi raccomando Silvio, ti aspetto tutti i giorni, spetto in edicola Sallusti, e devo ammettere, per me è una grande soddisfazione. Un'unica cosa, Sallusti, con cui ci conosciamo, quando conclude dicendo chi lo conosce lo evita nella vita, è vero, lo ammetto, non faccio parte del giro Santanché, punto. 9 in punto. E riprendiamo a sentire qualche ascoltatore. Alessandro ci chiama da Pistoia, buongiorno. Pronto Alessandro? Sì, pronto, buongiorno. Prego. Intanto una riflessione semplicissima: concordo con il dottor Giannino che la nostra è una classe politica largamente autoreferenziale e sulle cui reali competenze ci sarebbe da discutere. Ciò premesso, probabilmente dovrebbe passare un concetto per quanto riguarda per esempio la riforma del mercato del lavoro e il rapporto con i sindacati. Lei, dottor Giannino, dovrebbe, e credo che sia concorde su questo punto, far muovere una coscienza in questa direzione. I sindacati, così come sono strutturati, sono purtroppo anacronistici, sono legati a posizioni che ormai non hanno più attinenza con la realtà, dove davvero c'è questa sorta di contrasto tra chi produce, nel senso il proprietario dell'impresa o dello studio professionale, e i dipendenti. Finché il sindacato non si stacca da questa concezione che andava bene nell'epoca industriale o preindustriale, non andiamo da nessuna parte. Oggettivamente vedere una Susanna Camusso che si ostina a difendere quello che è indifendibile non fa bene né al paese né soprattutto alle persone che rappresenta. È sostanzialmente un'offesa all'intelligenza di chi si mette in discussione, rischia personalmente i propri capitali, naturalmente in maniera onesta, e dà lavoro a tanti soggetti che invece sembra in qualche modo che debbano temere la personalità di chi dà il loro lavoro. Questo è un concetto che culturalmente manca in Italia. Grazie Alessandro. Voglio sentire anche Federico che ci chiama da Roma. Buongiorno, breve, mi raccomando. Buongiorno, intanto un augurio a Giannino finché possa entrare in Parlamento, me lo auguro veramente. Perché gli ho sentito fare delle proposte a mio parere sconvolgenti, del tutto nuove. L'altra sera a Ballarò per esempio ha detto che tra le prime cose, tra i primi interventi ci sarebbe un taglio alla sanità, no? Ha fatto un esempio di come in Italia si spende tantissimo in rivoli e dispersioni varie. Ora, credo lui sappia meglio di me, io opero nel settore delle opere pubbliche, di quanto sia difficile andare a toccare certi settori. La Regione Lazio, c'è una campagna elettorale nella quale si ripresenta Storace, probabilmente appoggia tutta la sua forza proprio su quel settore lì. Come pensa di riuscire a smantellare delle lobby così forti? E più in generale, la corruzione in questo paese, che è un vero cancro, come pensa di debellarla? Lui prima ha fatto riferimento a chiamare la classe dirigente, perché sa benissimo che dove non arriva la politica, arriva la classe dirigente di questo paese. Come si interviene? Quella pubblica nella fattispecie. Quella pubblica nella fattispecie. Chiarissimo, quindi due domande, Oscar, entrambe, che mi sembra che non riguardino in realtà il programma, no? Ma riguardino proprio un tema che è la concezione dei rapporti nella fattispecie con i sindacati da una parte e dall'altra parte con le pubbliche amministrazioni, ossia con il tema della mentalità da cambiare in questo paese, non tanto i singoli provvedimenti. Prego. Allora, io con i sindacati un po' faccio una battuta, nel senso che l'essenziale è non credere a una delle tante panzane che spara Grillo nel suo tsunami tour, perché dice i sindacati vanno aboliti. Sì, vabbè, queste sono, capisci, battute dal grande dittatore Charlie Chaplin. Ti devo dire che su Twitter ci stanno arrivando, ci sono arrivate più di una domanda, più di una valutazione di un ascoltatore, dice: ma perché non vi mettete insieme al Movimento 5 Stelle? Io sconsidero i voti al Movimento 5 Stelle, devo dire la verità, molto positivi, nel senso che io mi auguro che siano una bella spallata al sistema dei partiti. Io l'ho sempre detto in radio tanti mesi, tutte le volte che gli ascoltatori chiedevano, oppure toccavamo questo punto. Non cambio idea, perché temo che l'agenda Monti abbia fatto tornare indietro la campagna elettorale in queste 3 settimane, abbia rimesso in pista Berlusconi nella gara a chi le spara più grosse, a cui si è iscritto Monti, ma Berlusconi lo batte perché è la gara in cui è imbattibile. E tant'è vero che Bersani, commettendo l'errore di chiudere le primarie pensando di aver già vinto, adesso ha di nuovo paura di perdere, deve chiedere a Matteo Renzi di levarsi la giacca e se la leva pure lui. Ecco, quindi credo che purtroppo questa campagna elettorale tornata alla Seconda Repubblica sia un'occasione perduta da questo punto di vista. Però, tornando a Grillo che mi chiedevi, Casaleggio lo terrà lontano da ogni tipo di commistione. Soprattutto i fatti poi della politica economica, quando mai dovranno confrontare con problemi concreti, faranno giustizia. Ma tu ci staresti? Cioè, è una cosa che finché spara cose del tipo l'euro a tutti, le banche di Stato con il capo dello Stato alla testa, il mio commento è che sono proposte da ambulanza, come direbbe il nostro amico Giuseppe Cruciani. Quindi l'ambulanza, evitiamo di andarci. Ecco. Senti, però invece capisco chi lo vota. Scusami. Quindi sul sindacato vediamo di non abolirlo. Sulla sanità, ci tengo a dire. La grande questione, i politici dicono sempre quando ci sono i programmi di rientro coatto, bene, allora vi taglieremo i servizi, e questa è una cosa che mi addolora, perché è falsa. Voi che state ad ascoltare, andatevi a vedere come è fatta la spesa sanitaria, è falsa. Quando un politico dice ti devo tagliare i servizi, vi sta mentendo, perché non vuole tagliare la cosa vera su cui poi la sanità è fuori linea e continua a essere fuori linea: i costi organizzativi, i costi delle forniture. E allora come si fa ad abbattere corruzione e spreco di denaro pubblico? Quando dico spreco, non si tratta di spreco, è consustanziale a come è organizzata così. Finché ogni direttore generale di azienda sanitaria, azienda ospedaliera, ha la facoltà di decidere lui i prezzi e le gare per le forniture, si tratti di un mobiletto come di un apparato biomedicale, allora questa cosa, che non esiste in nessuna grande impresa, ogni centro di costo si fa le forniture, non può che moltiplicare gli spazi di opacità, la disparità di prezzo tra gli acquisti dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e la corruzione, perché è ovvio che anche i privati preferiscono mettersi d'accordo con chi fa i prezzi e le gare. Questa roba qua, le forniture sanitarie, sono più di 70 miliardi di euro l'anno, sono aumentate del 50% dal 2002 al 2007. Quando i politici vi dicono dobbiamo tagliarvi i servizi, o non sanno questa roba, e non ci credo, oppure ci hanno le mani in pasta, come infatti succede nelle indagini giudiziarie aperte in ogni regione su queste. Ergo, primo provvedimento, i direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere non sono più nominati dai partiti della politica come oggi, ma bensì in Lombardia ci sono aziende sanitarie che hanno un bilancio superiore a un miliardo di euro l'una. Possiamo mettere un miliardo di euro l'uno, che è il bilancio di una grande azienda, nelle mani di un politico perché è di una corrente piuttosto che di un altro? No, la politica si deve limitare a fare i decreti di nomina, ma i manager delle aziende sanitarie ospedaliere si scelgono come manager. Si mette un bel bando sui giornali italiani e internazionali, si dice con quali punti e titoli li si giudica e in base ai punti e i titoli e l'esperienza di chi si presenta, un cacciatore di teste li seleziona e la politica si limita a fare il decreto di nomina. Fuori la politica e i partiti della sanità. Maurizio ci chiama da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Prego. Non, sarò velocissimo, non mi perdo nei complimenti o negli auguri. Solo una domanda, diciamo anche un po' logistica, perché se il Giannino raggiunge l'1, il 2, il 3%, non raggiunge il 4, questi voti dove vanno? Sono dispersi oppure c'è... Cioè, capito? Non riesco a capire dove possono essere mandati questi voti qua se non raggiunge il 4%. Sinceramente non me lo ricordo, sono voti che vanno dispersi, Oscar, quelli alla sono fine voti che non concorrono alla, di legge elettorale. Non concorrono alla rappresentanza per l'assegnazione dei seggi, non è che escano dal conto dei voti validi espressi, come ovvio, no, ovvio quindi ovvio. Non è che vengono annullati. Detto questo, ragazzi, questa storia per cui deve restare chi c'è da lungo tempo ed è grossa, è una storia che avrebbe portato l'Italia a tenersi Mussolini come Franco per decenni. L'Italia unitaria nasce da 700 pazzi su due barche. Il fascismo va via per una minoranza. Ma piantatela di farvi rimpere la palla da chi dice sto qua e ci devo restare. Ma qua, quando mai adottereste nella vostra vita privata una cosa di questo genere? Vi rendete conto che è una truffa intellettuale? È il peggior crisma a tenere i ladri di fiducia di questo paese a casa chi mente? Questa è la mia risposta, urlo apposta, lo so che dovete abbassare il volume, però sentirmi dire che l'unico vero sistema è tenere chi c'era, capisci che è una roba che nella storia fa un po' ridere. Andrea ci chiama da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione a Giannino. Due cose velocissime, comparto dell'auto che vale come indotto in Italia circa un 40-50%, è in grossa crisi, una soluzione potrebbe essere non ancora incentivi e quindi soldi pubblici, ma una grossa defiscalizzazione e mi viene in mente tutte quelle tasse che sia private che società pagano, dall'IPT al passaggio di proprietà, tante piccole tassine che bloccano un po' questo mercato. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, ci scrive un ascoltatore via Twitter, ammazza che enfasi, ora ho capito perché Giannino non ha voce. Allora Oscar, però rispondiamo all'ascoltatore da Venezia, ci parlava del settore auto. Sì, no, che io devo ammettere, chiederti scusa Simone per il tono di voce, poi devo chiederti scusa perché mi devo fermare ogni volta che parte dopo lo stacchetto, perché mi viene, eccoci tornati in su, è una cosa terrificante. Sono qua da stamattina con la sindrome del prete a cui hanno levato il breviario e ti chiedo scusa perché ho corso il rischio di dire eccoci tornati. Porca miseria, scusa. Allora qui innanzitutto l'automotive italiano, cioè tutta la filiera che fa componentistica e lavora per il settore dell'auto in Italia, fino all'anno scorso, fino ai dati sono di 2 anni fa, valeva effettivamente, Fiat esclusa, una quarantina di miliardi, 40-42 miliardi di euro, quindi è un settore molto molto rilevante. Il problema è che è stremato per la crisi del mercato dell'auto nel nostro paese. Noi siamo tornati a consumi pro capite di auto, in termini di autoveicoli nuovi comprati nel 2012, meno di 1.300.000 unità di tutti i tipi, ai consumi pro capite del 1974, quindi siamo tornati indietro di numerosissimi decenni e ovviamente l'automotive soffre molto. Effettivamente a fronte di quel meno di 1.300.000 autoveicoli, 900.000 più o meno comprati dalle famiglie, il resto flotte aziendali e società giuridiche, i privati hanno stentato a cavar fuori di tasca poco più di 24 miliardi di euro per comprarseli. Lo Stato, per le decine e decine di imposte e per i 30 passaggi amministrativi che insistono dalla nascita alla morte alla rottamazione di un veicolo per ogni veicolo, ha portato a casa più del doppio, oltre 50 miliardi, perché ricordo a tutti che ovviamente dall'IVA al preacquisto, l'IVA all'acquisto, l'imposta provinciale di trascrizione, il bollo, le imposte sul riciclo degli oli combustibili, dei carburanti e così via, ci sono decine campagna d'imposta. Allora, prendere così tanto su un settore che è così in ginocchio è un classico esempio dello Stato che non si sa fare i conti, crede di poter alleviare meglio i suoi saldi ma uccide l'economia reale, come è puntualmente avvenuto anche per la tassa sul lusso per i veicoli sopra i 2000 di cilindrata. Abbiamo regalato all'estero un pezzo di mercato, abbiamo regalato all'estero anche gli interventi nelle officine sopra i 2000 cc perché naturalmente fanno redditometro, spesometro, scusate, e da questo punto di vista ha ragione a chiedere una revisione abbastanza drastica della politica fiscale sull'auto, perché l'auto la stiamo uccidendo, mentre l'automotive, qualunque cosa avvenga di Fiat, io mi auguro che riesca ad andare avanti nel suo progetto Chrysler, noi dobbiamo mettere in condizione l'automotive italiano di lavorare per le altre case europee, tedesche e così via, però per fare questo dobbiamo tenerlo in piedi, col fisco lo stiamo uccidendo. Ci chiedono degli ascoltatori, anche qua, anche via Twitter, dice, va bene, insomma, non esiste il ragionamento sul voto utile, poniamo che arriviate in Parlamento, dice, vabbè, il giorno dopo che fate, insomma, visto che... come dire, avere la maggioranza mi sembra piuttosto difficile, no, a questo punto, no. Oscar. Anzi, è molto improbabile che noi faremo parte di una maggioranza, però per radicare un'idea nuova di coerenza tra il dire e il fare, per radicare un'idea di dignità personale e politica rispetto all'impegno di chi dice c'è molto Stato grasso e ladro da ridurre in meno imposte per il lavoro e per l'impresa, per cambiare il welfare, per fare legge sul conflitto di interesse, per abrogare il finanziamento pubblico dei partiti, per ricordare che abbiamo votato in vano un referendum sulla RAI, eccetera. C'è bisogno di gente semplicemente che ogni giorno in Parlamento, numeri alla mano, con competenza, senza pensare di inventarsi sciocchezze, vada avanti su questa linea. Guardate che è lunga l'idea di ridare dignità e concretezza alla politica italiana, e siamo all'inizio di questa cosa. Qualunque sia il numero che leggerete sul teleschermo, sappiate che noi nei consigli regionali ci entriamo di sicuro, si rivota al consiglio regionale in Friuli due mesi dopo, si vota alle regionali perché Nicchi diventa un politico nazionale, Vendola, si vota alle regionali in Puglia, si vota alla comunale di Bari, si vota alla comunale di Roma, è solo l'inizio di un progetto di ridare dignità e concretezza, e spero di non rimanere solo come partitino, perché io non voglio partitini. Vediamo quanti italiani alla prova dei fatti, se c'è un costume pubblico nuovo, dicono, oh, beh, allora forse non avevano tutti i torti, non gli ho dato il voto, glielo ridarò la prossima. Sentiamo Barbara che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, due domande. Giannino è convinto che questo Parlamento non sarà in grado di fare molto, malgrado la sua presenza, che gli auguro, e che quindi si andrà a rivotare nel giro di 18 mesi. Seconda domanda, questo Parlamento voterà il Quirinale, chi ci rappresenterà per 7 anni, e questo è un problema molto grosso dal momento che il Quirinale, soprattutto negli ultimi tempi, ha manifestato capacità e autorità, diciamo, che vanno anche un po' al di là di quello che è il detto costituzionale. Grazie Barbara, e questa è un'ipotesi che sta circolando molto in quest'ultimo periodo, soprattutto visto il recupero di Berlusconi, visto il fatto che il movimento di Beppe Grillo è dato intorno al 18%, forse qualcosa di meno, visto che ci siete voi, che a questo punto dal lato dello sbarramento siete ancora un'incognita. Insomma, si dice in giro, tanto tra un anno e mezzo, fa un governetto del PD con due senatori di maggioranza e poi tra un anno e mezzo si rivota. Come la vedi? Io vedo che se davvero i sondaggi, che da un po' sono vietati, quindi anche questa storia del voto utile, avete capito in ascolto che ve l'hanno tamburata per farvi credere che sia così, i sondaggi d'ora in poi sono vietati, quindi scegliete con libertà. Detto questo, se dovesse finire con un Parlamento zoppo, con un Senato zoppo, e inizio del consueto esercizio di questa disciplina olimpica che è lo scilipotismo, con i parlamentari che transumano con un'asta aperta dove vince chi ha più soldi, ergo di Silvio di solito, allora, i grandi partiti, i capi dei tre grandi partiti, Bersani, Berlusconi e del partitino Monti, dovrebbero dire, piuttosto che un Senato zoppo, abbiamo imparato la lezione delle legislature precedenti, quando è già avvenuto, è finita male per l'Italia, per chi credeva di lucrare facendo l'interdittore della maggioranza al centro, per i vari di Fondazione Mastella, è finita male per tutti, quindi cambiamo subito la legge elettorale nel corso dell'estate e riandiamo a votare in autunno. Questa è la mia idea, piuttosto che un Parlamento zoppo, via questa oscena legge elettorale, col premio di maggioranza svincolato tra Camera e Senato diverso, e con questo schifo di questo criterio che piace molto ai capi partito di scegliere gli eletti. Allora, io preferisco questa roba qua. Oscar, abbiamo ancora, insomma, la trasmissione la conosce, abbiamo circa 3 minuti perché, insomma, fortunatamente la pubblicità ci assiste in questo periodo. Che ne pensi del condono, di un'ipotesi di condono? Anche come ce l'ha prospettata Berlusconi ieri, cioè dice, insomma, non è un condono vero e proprio, però chi ha un debito con Equitalia, gli togliamo l'amore e tutto quanto, deve pagare solo quello che deve effettivamente al fisco. Guarda, lui ha usato apposta l'espressione tombale per poi correggere, credo che il vero condono che ha in mente è quello penale, ecco, questa è la mia battuta. Detto questo, io sono per un cambio radicale delle impostazioni seguite dal sistema del contenzioso fiscale e dell'esazione fiscale rispetto a contribuenti in comprovata difficoltà. Un sistema tributario che non sa distinguere l'evasore totale da perseguire, da chi si presenta carte alla mano, come fanno migliaia e migliaia di imprese e contribuenti, dicendo ti ho sempre pagato, ma adesso io non c'ho liquidità, la banca mi ha fatto rientrare, voi mi mettete gli interessi di mora come se fossero sanzioni. Sapete distinguere? Ecco, un sistema tributario che non sa distinguere, non vuole distinguere e ti dice chiudi e crepa, è un sistema tributario incivile. Il nostro è un sistema incivile, ma non c'è bisogno di prendere la bandiera del condono tombale per dirlo. Bisogna cambiare le cose mentre la firma al decreto che dà un giro di vite ai sequestri delle ganasce sulle auto e delle case di prima proprietà nel primo livello del contenzioso tributario, quel decreto luglio 2010 l'ha firmato Giulio Tremonti. Berlusconi, Presidente del Consiglio, non racconti palle! Filippo Giuliano da Venezia, 20 secondi di domanda, Filippo, 20. Da Vicenza, per la verità, comunque sempre Filippo. Via, velocissimo. Ecco, allora volevo parlare un pochino di aspetto fiscale. Si fa un gran parlare in questi giorni di abolizione IMU, riduzione IMU, addirittura rimborso IMU. Volevo sapere appunto cosa ne pensava, spero il futuro onorevole Giannino. Oscar, 30 secondi sull'IMU. Flash, noi siamo per abolire l'IRAP e per agire sul cuneo fiscale. Dell'IMU lo scandalo è, primo, che lo Stato lo usi come bancomat, lasciamolo ai comuni. Secondo, va abolita subito la parte di IMU strumentale sui capannoni. Persino quelli abbattuti dal terremoto lo Stato ha fatto pagare l'IMU. Quella è una roba folle. Poi si procede, prima le imposte giù, quelle che servono più per la crescita e per il lavoro. Questa è la mia impostazione. Grazie ad Oscar Giannino, ospite nell'ambito degli incontri con i candidati premier. Grazie ad Alessandro Marcotulli in redazione, Franco Piantanida in assistenza, Filippo Aureggi in regia a Milano, non so chi ci fosse a Roma in regia. Grazie al centralino, a Rosa ed Eleonora e a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24. La passione si sente.